Friuli nel mondo, 148esima trasmissione dedicata agli emigrati. Tre cori e sei villotte. Vogliamo oggi trasmettervi, cari radioascoltatori, un secondo mazzetto di canzoni eseguite nel corso della terza sagra della villotta svoltasi a Villa Santina, sotto l'egida della Scuola Libera Friulana. Anche in questi motivi ritroverete l'anima canora del Friuli sempre più viva e più schietta e legata alla tradizione del bel canto friulano. Il coro Hermes Grion del Circolo Ricreativo Cantieri Riuniti dell'Adriatico di Monfalcone, diretto da Aldo Policardi, esegue la villotta No Scherzà di Cesare Augusto Seghizzi e Curiositat di Giovanni Pian. No scherzà col fulmine che col sise al vol sguenta, lasse lasse calzope tua sventin di sabora. Stamo dente da sbrovate, piega sopra di adumire, pensa ben che fucca il bruse, e non stilse il polfamà. Lasse, lasse, calzusini, e calzaldi c'aveva, e calzaldi c'aveva. Un nero se cutulade, tu nini nero tu quest, se tu resti biescotade, tu se rode senza quest. Une volte disperade, no ti sove ti svai. Buce, man del fu cabini di, dove fiori scuri tu, a nul e la sprofu, rosi slappi sgardufali, rosi slappi sgardufali, nol, ulve, lis, non culve lis, non ulve lis. Lui mi so. Mari, le bondi fanno pari, ma parli vie ciare fie se usto bocca il des di fa. Ducci dolla, si contenta dolla, e di plui non domandavi. Donne volla, mi serpolla, l'esta simpi non di già. Le sta simpi, ma il mio Toni, io i perdoni. Ma le donne, Se ti incontri di Tarcisio Todero su testo di Guido Michelutti e La Bardele di Franco Piazza su parole di Gemma Nodale Chiappolino vengono cantate dal coro Giuseppe Peresson di Piano d'Arte diretto da Fiorindo De Colle. Ed infine la corale Tita Birkebner di Tapogliano e Nogaredo al Torre, diretta da Giovanni Famea, esegue la villotta La Nuvice di Elia Fabbro e ai mandatne cartoline di Giulia Moro, su versi di Carlo Quaglia. Ding dan don dan ding dan ding dan don dan ding dan don ding don. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo a cura di Armete Pellizzari.